10, attenzione morti, ci siete? CQ a tutti i morti della frequenza. Attento Marco, ci sei? Chi è avanti? Non si sente, troppo basso, aumenta la voce. E beh, non fate più, chi sei? Oh! Avanti, chi era quello? Chi era costui che si è appena risvegliato? Avanti, chi sei, chi non sei, mi vuoi rispondere, sì o no? O sei già morto? Alla Reci, a Sassari si dice. Attento Marco, ci sei, sì o no? Ci sei, se non chiudo, Marco, ci sei? A tutti i morti della 27, è ora di svegliarsi. Avanti Portogallo, ascolti l'Italia. Ok, avanti, stato un posto per avanti. Ok, Portogallo, ma se non lo so se sei in Portogallo. Io sono sulla Luna, non lo so se mi ascolti bene. Avanti costui che dice di essere in Portogallo, ma non ci credo. Sì, lo tramiti, non hai copiato per qui, Veramente continua la parla per me. Comunque fratello è negativo. Negativo per qui, Curiamo salute per te, tutta la famiglia. Una buona settimana. Cosa vanno a me? Portogallo, si sa se è vero, ma non mi sembra che ci sia propagazione, non lo so, comunque ti sento molto basso, non capisco tutto quello che dici, ti sento molto basso di radio, segnale 5, ma la radio è bassa. Avanti Portogallo. Chiedi, se posso risponderti ti rispondo, chiedi che cosa ti serve. Quanta unità, avanti. Troppo basso, non ho capito quello che hai chiesto. Santiago 5, Radio 2, la tua radio è molto bassa, prova a gridare, può darsi che ti ascolto. Ciao mio amico, grazie per questo canale. Ok, canale 1, il primo però del mio canale. Ciao, buona serata. Ok, ciao. Ma tu mi ascolti bene? Dimmi se mi ascolti bene tu, perché io sinceramente ti sento basso, c'è QRM, molto QRM. Ma tu mi ascolti bene di radio? Attento Portogallo, se ascolti ancora l'Italia. Ok, sì, la tua radio adesso è migliorata un tantino, il segnale anche. Adesso il tuo segnale è Santiago 7. Io mi trovo in Sardegna, Italia, per cui non è che siamo così vicino. Evidentemente la propagazione non è buona, anche perché c'è molto QRM, c'è molta interferenza in frequenza oggi, non è pulitissima la propagazione. Avanti ancora, collega del Portogallo, col tuo numerativo. Ti vogliono per te, in questo momento è Tollaro dalla Italia, Sardegna. Si sa Sassari, avanti. Attento Portogallo. Attento collega del Portogallo, se ascolti Sassari, Sardegna, K. CQ la frequenza. CQ canale 10. Tutti morti? CQ canale 10, CQ, CQ, CQ, CQ, c'è qualcuno che ascolta? CQ 10, c'è nessuno che è resuscitato? CQ, CQ, CQ 10, CQ canale 10, c'è qualcuno resuscitato in frequenza? Qualcuno su canale 10? Attenzione Sassari, ci siete? Attenzione colleghi di Sassari, ci siete? CQ canale 10? Sassari chiama? Sassari in cartolina chiama? Sassari in cartolina chiama, ci siete? Oh oh! Siete proprio morti tutti, oh, porca miseria! Claudio, ci sei? Tanto lo so che stai ascoltandomi. Claudio, Brondelli di Siria, in campagna. Attento Claudio, ci stai abbronzando in campagna.